questa partita loro la giocano fuori casa, però sapevamo di questa spensieratezza tattica da parte dell'allenatore Stramaccioni, quindi eravamo pronti, ma non ci ha trovato assolutamente impreparati. Però l'ho sentito con le mie orecchie, l'ho visto con le mie orecchie e ha fatto ironia sulla spensieratezza tattica dell'allenatore dell'Inter e dell'Inter. Tutti convocati di Carlo Genta. Io zappavo la testa. Vabbè, venerdì interessante anziché no. Franco Piantanida, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia mentre sta per parlare Allegri. Siamo alla vigilia di un turno di campionato che sembra molto interessante. Non casuale la sigla, perché non abbiamo dimenticato, perché abbiamo la memoria degli elefanti. E dopo la vittoria dell'Inter a Torino, Marotta parlò giustamente, secondo me, di Inter spensierata. Come avete sentito, Stramaccioni si arrabbiò e disse: l'ho sentito con le mie orecchie, l'ho visto con le mie orecchie, visto con le mie orecchie è difficile, però il senso era quello, era un Inter spensierata che non aveva nulla da perdere, sembrava la partita della svolta, quell'1-3 con un Inter che sembrava poter puntare legittimamente allo scudetto. Poi il mondo è cambiato, un girone dopo è stato riportato ad una dimensione meno antistorica. L'Inter ha fatto 20 punti, la Juventus 37, c'era un punto di vantaggio di distacco tra le due, 28-27 dopo quella partita. Adesso i punti sono 18. Forse fu solo una grande illusione. Non posso fare a meno di pensare che se avessi preso quel maledetto treno questo non sarebbe mai accaduto. Sarei tornata secoli fa. Oh, beh, molto meglio non porsi mai domande di questo genere. Insomma, se soltanto questo, magari se quello... secondi per la Juve in vantaggio. Era fuori gioco. È uno schema trattenuta su Milito, calcio di rigore. Diego è il principe Milito, 1-1. Prova a puntare gli avversari, Guarin è più veloce di Vidal, arriva in zona tiro, prova il destro, Buffon, Diego, Milito, 2-1. Ancora Nagatomo, palla al piede, sempre Nagatomo, prova a liberarsi, Palacio, Buffon, Rodrigo, Palacio, 3-1. It's just an illusion. Inter batte Juventus, 3-1. 800 24 00 24, siete come sempre tutti invitati, lo sarete anche domani dalle 17 alle 18 quando saremo qui in diretta a raccontarvi ciò che sarà successo in Inter-Juventus e nelle altre gare, salvo ovviamente Chievo-Milan perché si gioca alle 18 e Torino-Napoli che si gioca alle 21. Visto che siamo in diretta, sta parlando Massimiliano Allegri in questo prepartita rossonero, sentiamo una battuta così a caso per eventuali cori, ma sicuramente con l'obiettivo di far bene, perché domani dobbiamo cercare di centrare la vittoria che ci permetterebbe innanzitutto di passare una buona Pasqua e poi di mantenere sempre il terzo posto con 3 punti di vantaggio sulla Fiorentina e far rimanere invariato il vantaggio sulle inseguitrici con una partita in meno poi da giocare. Questo Massimiliano Allegri che domani non avrà Pazzini, Boateng e Zapata non convocati, altra notizia di cronaca. Io saluto e ringrazio Mirko Graziano, inviato della Gazzetta dello Sport. Ciao Mirko. Ciao a tutti voi. Beh, prepartita non è stato male, con Conte che ha detto andrei ad allenare l'Inter, perché no, Inter o Milan, potrei diventare il primo tifoso di quelle squadre. Stramaccioni, che è un po' più giovane, ha detto sulla panchina della Juventus non mi ci vedo e non usate Mourinho che è una grande illusione. Non male come prepartita per questa gara che sembrava all'andata qualcosa di rivoluzionario, poi in realtà c'è stata la restaurazione. Sì, la restaurazione. Una partita che tra l'altro la Juve giocherà al meglio delle sue forze, perché Conte è stato chiaro anche in un'altra circostanza oggi, quando ha chiarito bene quali sono le gerarchie, comunque l'ordine degli obiettivi di questa stagione, ovvero il campionato va vinto a tutti i costi, la Champions League poi vediamo. Quindi lui vuole mettere assolutamente al sicuro lo scudetto e vuole farlo già a Milano, perché teme comunque molto un calendario che lui reputa insidioso, con gare ancora da affrontare contro Milan, contro il Torino, contro la Lazio, partite che lui sente come molto pericolose. Ha voluto chiarire questo, ha detto lo scudetto va vinto, la Coppa poi vediamo cosa succede. È un sogno e i sogni hanno una bassa percentuale di realizzazione. Sì, chiaro che si gioca con pesi diversi sulle spalle, perché per parafrasare Marotta, la Juventus va in Champions League spensierata, e non so se qualcuno si offenderà, ma, esatto, ma pazienza. 8-0-0-24-0-0-24, mentre la Juventus in campionato gioca un po' meno spensierata, anche se lo scudetto ce l'ha in mano, perché certo, può solo buttarlo via, e Conte lo sa perfettamente. Ha tutto da perdere, infatti, hai detto bene. Invece volevo appunto spendere qualche parola in più sulla presa di posizione di Conte, che io ho trovato molto matura. Sì. Perché si è dimostrato un uomo intellettualmente libero, cioè nell'era delle guerre sante, soprattutto guerre sante che nascono soprattutto dal popolo juventino amareggiato dopo le vicende di Calciopoli, eccetera eccetera, questa presa di posizione è una presa di posizione molto intelligente, secondo me è molto forte. Hai ragione, Mirko? Sì, eccomi qua, ci sono. Dicevo solo che hai ragione. Sì, sono infatti, mi ha colpito molto questa presa di posizione, davvero di una persona che io già stimavo molto come tecnico e oggi stimo ancora un pizzico di più come uomo, che si è dimostrato veramente intellettualmente libero. Non è facile nell'ambiente. Non ha paura di esporsi, no? Bravo, certo. Bravissimo. Non ha paura di esporsi. Io, tu sai, una predilezione per quelli che comunque ci mettono la faccia. Infatti, Conte infatti oggi ha fatto così. Senti, secondo me è una partita da pareggione, ti dico questo, anche perché Conte l'ha già battezzato, un pari non sarebbe male per l'Inter, un pari non sarebbe male perché vorrebbe dire rimanere comunque attaccata ad un treno che secondo me perderà, perché io che sbaglio qualunque tipo di pronostico, c'è chi mi invita a dire... Prova a dire che non credi alla vittoria dell'Inter, Edoardo, perché sa che i pronostici sbaglio sempre, però io vedo Milan secondo, Napoli terzo, poi sono ovviamente arriva seconda l'Inter e terza la Fiorentina. No, davvero, in questo momento solamente un piccolo miracolo potrebbe portare l'Inter tra le prime tre. Il Milan è lanciatissimo e il Napoli non è una squadra in disarmo, quindi francamente... Questa Inter con queste assenze, soprattutto con la gravissima assenza di Milito particolare, certo, e con le difficoltà di recupero di Samuel, che poi erano i veri pilastri di questa squadra, francamente non riesco a immaginare un Inter che concluda alla grande questa stagione. Io la vedo già in grossa difficoltà domani. 8-0-0-24-0-0-24 è il numero verde. C'è chi mi scrive: ammettilo che sei juventino. Lo ammetterei, ma non lo sono. Ascolta Mirko, un attimo di pazienza, traffico, poi chiudiamo la nostra discussione con due punti. Uno mi serve ad inquadrare la giornata di domani con il Milan che gioca a Verona, il Napoli che gioca a Torino, la Fiorentina che gioca a Cagliari con le porte sbarrate, eccetera eccetera, e l'altra è per Mazzarri, che come al solito ha tirato fuori il foglietto e si è lamentato. Strade 8-0-0-24-0-0-24. Pensierato, no, direi che sono soddisfatto. Tutti convocati. Allora, caro Mirko Graziano, c'è appunto questa partitissima domani alle 15 a San Siro, il Milan a Verona alle 18 contro il Chievo, il Torino che riceve il Napoli, detto della Fiorentina che gioca a Cagliari a porte chiuse, la Roma a Palermo dove il Palermo è disperato. Io sono dell'idea che domani cambierà poco, posso dirlo? Cambierà poco e vedo un sacco di pareggi. Sì, io sono d'accordo con te, l'unica cosa che secondo me... ha una buona percentuale di realizzazione l'aggancio del Milan sul Napoli. Cioè il Napoli potrebbe anche pareggiare a Torino, considerato anche le difficoltà che ci sono state nel rientro di un uomo importante come Cavani, considerato che il Torino è una squadra che sta bene e gioca anche molto bene, mentre vedo una vittoria abbastanza semplice del Milan a Verona. Per il resto, insomma, vedo pochi cambiamenti. Aria di pareggioni, sì. A proposito di Napoli, Mazzarri, c'è Gianfranco Piantanida che vorrebbe il ritornello di Mazzarri quando si lamenta, così facciamo un rap. Oggi ha tirato fuori il foglietto e dice: non ho potuto allenare, mi manca questo, quell'altro, Cavani arriva direttamente a Torino. Il Barcellona questa settimana, tanto per la cronaca sempre, si è allenato con tre giocatori: Abidal, Pinto che è il portiere di riserva, e Dos Santos. Tre giocatori. Sì, no, io sono d'accordo con te. Su Mazzarri, che tra l'altro reputo un ottimo allenatore, proprio allenatore, perché è uno che le squadre le fa giocare bene, sono sempre molto organizzati. Su Mazzarri, però, io gli consiglierei, se vuole veramente arrivare a una grandissima squadra, di evitare di continuare a lamentarsi, o comunque di mettere le mani avanti, quantomeno dà questa impressione, dà l'impressione di voler sempre mettere le mani avanti. Quando sei in un grande club e lotti per grandi traguardi, è normale che durante la sosta internazionale tu non abbia i giocatori, se no non le terresti per grandi traguardi. La Juve ne aveva fuori 14, la stessa Inter, che è semidisastrata, ne aveva fuori un sacco, e è normale. Se vuoi, se ti reputi un allenatore da grande squadra, non dovrai mai più lamentarti di questo, perché sennò vuol dire che non alleni una grande squadra. Certo, devi se ce l'hai tutti a disposizione, vuol dire che non hai giocatori all'altezza. Devi gestire i viaggi, devi gestire la stanchezza, devi arrangiarti come fanno gli altri. E poi non penso che sia un buon segnale alla squadra mettere sempre le mani avanti. No, perché no, lui no, dà questa impressione. Offri alibi. Di voler sempre mettere le mani avanti. Sì. Poi non è così, però l'impressione è questa, e non è un buon segnale alla squadra, insomma. Grazie, Mirko. Grazie a te, un abbraccione. Grazie, ciao ragazzi. A Mirko, ciao. Graziano, inviato della Gazzetta dello Sport. Io però adesso voglio parlare con voi. 800 24 00 24. Ovviamente oggi venerdì parleremo anche di basket, come facciamo sempre con Dan Peterson e con Flavio Tranquillo. Salvatore Modena, poi Sergio da Pavia. Salvatore, buongiorno. Buongiorno Carlo, grazie della convocazione. Sempre convocati. Anche volevo... domani, mi raccomando. Volevo intervenire riguardo all'argomento Totti. Sì. Ecco, si fa questo gran parlare di Totti come possibilmente il più grande giocatore italiano di tutti i tempi, a discapito invece dei vari Meazza, Mazzola o Baggio. Ecco, io volevo dire che non sono molto d'accordo con questa definizione che danno i media circa Totti. Sì, ha segnato tanti gol dietro solo Piola, però i numeri non sono tutto, voglio dire. No, i numeri non. Valutando la carriera complessivamente. E quindi lei, io sono contrario ai paragoni epocali, ai paralleli epocali, perché secondo me è impossibile paragonare un giocatore di oggi ad uno di 50 anni fa. Però secondo me Totti è stato, diciamo, uno dei più forti giocatori del dopoguerra italiani. Non ne ricordo così forti. No? Mettiamo prima. Chi vuole mettere prima? Vuole mettere Baggio? Sì. Vuole mettere. A mio modesto parere, Baggio forse andrebbe posto ancora avanti a Totti. Non fosse altro che anche per l'immagine di campione che ha sempre dato nel corso della sua carriera. Sì, immagine va bene, ma non, io valuto il campo. Totti ha vinto un mondiale, comunque ha vinto uno scudetto nella Roma, è rimasto lì per tutta la carriera e i gol parlano per lui, quindi anche i numeri, che nel calcio ha ragione, non sono tutto, però qualcosa sono. E quindi questo giocatore, che tra l'altro non è nato, come sappiamo, come prima punta, poi è stato reinventato prima punta, eccetera eccetera, in 20 anni ha segnato una valanga di gol. Ora poi è questione di gusti, di tifo, di altre cose, però io Totti lo metto davanti a Baggio, se permettete. Opinione personale, ampiamente non condivisibile da voi. 800 24 00 24. Sergio, buongiorno. Sì, buongiorno. Telefonavo per parlare dell'Olimpia Milano, no? Che ho visto quest'anno con mio figlio e mia moglie. Diciamo, una partita imbarazzante contro la Sutor Montegranaro. Sì, la seconda consecutiva. La seconda consecutiva. Ma non lo so, io ho visto quella, diciamo che... Non è che quella prima con Cremona sia stata meglio. non lo so, ma ho visto quella con mio figlio che gioca a mini basket, io che faccio un po' di sport amatoriale. E diciamo che ho visto quelle cose che siamo parlo dell'allenatore, cioè 40 minuti di difesa d'uomo contro una Montegranaro che tirava da tre ed entrava centralmente, non sono stati in grado di cambiare una difesa, cioè nel fare una difesa a zona, magari una 3-2 anziché una classica 2-3, però una 3-2 mi protegge da fuori ed evito anche qualche entrata in area, cioè hanno continuato a tirare da tre e metterle dentro perché Sutter ha fatto una grande partita. Sì. E poi diciamo che il capitano comunque dell'Olimpia, Melli, onestamente senza spessore, cioè totalmente, cioè, è vero l'allenatore. Non, Melli, non puoi, sì, Sergio, però non puoi pretendere che sia Melli l'uomo che ti porta fuori dalle secche, sono altri giocatori che dovrebbero farlo. Il problema è che la domanda chi dovrebbe farlo rimane ormai da anni senza una risposta. Già che siamo in argomento, allora ne parliamo subito. Well, now they gave him his orders in Monroe, Virginia. They said, Steve, you're way behind time. This is not 38, this is old 97. Put her in the Spencer on time. Coach Dan Peterson. Ciao, coach. Ciao, Carlo. Come andiamo? Benissimo. Scariolo meno, però. Domani Sassari-Milano, Olimpia nella bufera e Scariolo sulla graticola. Per il pubblico, per l'opinione pubblica, forse anche per la stessa società, perché Prodi ha detto dovesse dare le dimissioni ne prenderei atto. Dice anche che non ha mai visto così tante differenze in una squadra tra gli allenamenti e le partite, ma la colpa di chi è? Guarda, e ovviamente hai detto che la squadra è in difficoltà, domani è una partita bivio per tutta la stagione, partita difficilissima perché a parte la bravura dei Sassari che lì è secondo posto, per un attimo erano anche i primi e vengono da una sconfitta bruciante a Cremona 108-91, quindi saranno veramente arrabbiati, vediamo se ce l'hanno Travis Diner o meno. È chiaro che la squadra di Milano è in grave difficoltà e come hai detto in settimana tutti i giornali hanno scritto di Sergio Scariolo. Ho letto un articolo oggi di Valerio Bianchini, ha detto questa non è la soluzione di andare via Scariolo, ma di giocare a pallacanestro più o meno, ha detto lui. Bianchini è sempre qualcosa. È chiaro che Sergio deve dare una sterzata alla situazione e lui è capace di farlo. Sì. La squadra, ne parliamo spesso tutti noi, che la squadra è in grado, se vengono tutti i pezzi insieme, a anche vincere i playoff, ok? Quindi ho letto un articolo, anche un commento l'altro ieri di Alessandro Gentile che ha detto pensiamoci al campionato, al Cantù, alla squadra, a ciò che dobbiamo fare. È lì che si fa, ok? È chiaro che Sergio deve fare il suo lavoro, l'ha fatto nel passato, lo deve fare ancora. So, coach, ma tante parole, ma cosa non funziona? Questo, non essendo l'interno, questo non lo posso dire e non vorrei neanche speculare su questo, ok? Quindi è chiaro che qualcuno deve anche, come avete detto voi prima, illuminare la strada, ok? Il capitano, il leader, magari non capitano, l'allenatore, il gruppo stesso. E poi tornando a Livio Prodi per un secondo, cioè lui ha detto quello che è un vero dirigente sportivo, devo dire, perché io ho fatto due lauree universitarie. La seconda è stata l'Università del Michigan, amministrazione sportiva. Una delle prime lezioni che mi ha avuto proprio di la materia si chiamava Sports Administration, ok? Una delle prime, tu sei, come Livio Prole, il boss di un allenatore, tu lo devi difendere fino all'istante di non cambiarlo. E Prole sta facendo questo. Seconda cosa, se una persona, allenatore, altra persona, ti tende le dimissioni, ti dà le dimissioni, li deve assolutamente sempre 100 volte su 100 accettare. Certo. Prodi non ha detto altro che questo. Lui sembrava il mio professore di Sports Administration dell'Università di Michigan nel 58-59, Dr. Paul Hunsicker, che ha spiegato le cose come Dio comanda. Cioè, lui ha detto questo. È chiaro che questo mette un po' di pressione, però io non so cosa posso cambiare a questo punto della stagione. E la squadra, e anche Sergio, anche il suo staff, che deve veramente general manager, Portaluppi, tutti quelli che sono vicini alla squadra, che devono rovesciare una situazione, una tendenza negativa. Anche qui serve una mezza rivoluzione. È rimasto forse uno in Italia a difendere Scariolo, il più folle di tutti, questo. Io sono enormemente spiaciuto per quello che gli sta succedendo, ed è una cosa che invece è inaccettabile mettere in discussione lui come allenatore. Un allenatore può avere un'annata storta, ma io che alleno da 20 giorni, pensare che Scariolo, dopo tutto quello che ha vinto, non sia un allenatore, fortunatamente per me non mi passa nemmeno per la testa. Però ecco, insomma, crocifiggere così Sergio mi sembra esagerato, non da parte dello spettatore, che è per certi versi sempre giustificato da questa sorta di pago il biglietto e quindi posso lamentarmi, che non è poi neanche un discorso poi tanto giusto, ma dagli addetti ai lavori, piuttosto che dai suoi colleghi, piuttosto da quelli che vedo in giro che ci godono. Dunque, non ha le lauree che hai tu, non ha studiato business administration, coach, non ha neanche studiato legge, Pozzecco, ma fa l'avvocato difensore di Scariolo. Sostanzialmente stiamo dicendo tutti noi la stessa cosa: la squadra, la gente che va in campo, deve reagire, deve dare qualcosa che non abbiamo visto quest'anno. C'è proprio non abbiamo avuto la sensazione finora che questa è la squadra che può fare qualcosa. Qualche flash abbiamo avuto, però l'impressione che loro ci sono assolutamente in grado di fare questo colpo qui e vincere tre serie di playoff, non l'abbiamo avuto ancora. E la capacità, la potenziale per farlo c'è. Loro, bisogna che loro facciano. I giocatori sono quelli che scendono in campo e lo devono fare. Devono giocare proprio con umiltà. Sì. Troppe volte abbiamo detto, Carlo, ho una squadra forte, posso fare questo qui. Forse bisogna pensare in maniera diversa. Non pensare di essere forte, pensare di essere veramente umili, quello che è, i nani con il coltello fra i denti. Ok, questa è la storia. Grazie, coach. Ciao ragazzi, ciao. Ci sentiamo venerdì. Grazie, coach Dan Peterson. Questa sera vi ricordo Siena, ultimi spiccioli di speranza in Eurolega con la numero uno del basket europeo, cioè il solito Barcellona. Guarda caso, guarda che novità. 800 24 00 24, vi aspetto tutti su tutti i temi sportivi di cui volete parlare. Oggi non c'è la borsa, ma c'è la pubblicità. Io di nuovo ti dico che è un posto che mi ha stupito per la disponibilità da parte delle persone, al di là di quelli che orbitano intorno alla società di pallacanestro, che sta facendo bene la C1, che per certi versi magari uno può anche aspettarselo. È proprio, non so, nell'albergo, l'hotel Mulino dove ci hanno alloggiati, sono tutti molto carini, quindi abbiamo avuto un impatto estremamente positivo. Poi siamo andati al quiz domenica sera, perché chiaramente i ragazzi avevano voglia di divertirsi, e il coach ha dovuto sparare fuori un 1000 per perché era giusto come premio partita dopo la vittoria a 30. Tutti convocati. Dai messaggi vedo che il pubblico è diviso tra meglio Totti, meglio Baggio. Secondo me è discorso di Nana Caprina. Io le mie opinioni me le tengo. Secondo me meglio Totti insieme a Rivera, più grande giocatore del dopoguerra. Per quanto mi riguarda, poi ognuno può avere le sue opinioni. Totti ha vinto un mondiale, Roberto Baggio no. Baggio ha giocato nella Juventus, oltre che nel Milan e nell'Inter, con alterne fortune. Non ha vinto, cioè ha vinto più di Totti a livello di club. Questa è la storia, la cronaca. Poi c'è chi mi invita, Marco da Palermo, a scusarmi per il mio pensiero su Vettel e su quel sorpasso su Webber. Marco da Palermo, non ci penso nemmeno, ho quell'opinione, me la tengo. Tu mi scrivi, sei un provocatore, sarà anche così, però le mie opinioni ce le ho e le conservo su Vettel, non chiedo scusa neanche un po'. Antonello Biella, buongiorno. Buongiorno Carlo, io sono molto d'accordo con voi. Con chi? Su tutto, con te. Su tutto? Tutto. Non c'è niente oggi di cui... tutto. Allora ci annoiamo come le bestie. Oggi su tutto. Vedi su Mazzarri, ho chiamato per quello. Sì. Secondo me Mazzarri è arrivato ad allenare... Cioè, Mazzarri ha una fascia di allenamento di squadre, secondo me. Più di quello non può allenare. Non ce la fa allenare una squadra campionato. Mi piacerebbe vederlo e magari lo vedremo l'anno prossimo. Certamente con il Napoli ha fatto Allora, Antonello, certamente con il Napoli ha fatto un lavoro meraviglioso e su questo non c'è nulla da dire. Però quando arriva al punto di giocare per i punti, per però gli mancano i giocatori, Se la prende con tutti. Sì, no, quello sì, ma alla fine gli mancano sono i giocatori, gli manca la profondità di rosa ad alto livello, gli manca a Napoli manca qualcosa, indubbiamente dal punto di vista dell'organico inferiore a chi sta davanti e anche a molte di quelle che stanno dietro, anche dal punto di vista economico, degli ingaggi, dei costi eccetera eccetera, il Napoli è qualcosa di miracoloso. Poi a me dà abbastanza fastidio sentirlo lamentare di continuo, ma insomma fa parte probabilmente del personaggio, perché tutti quelli che allenano squadre di un certo livello, come diceva bene prima Mirko Graziano, hanno problemi di questo tipo, quindi anche lui ce li ha e se li deve smazzare, non c'è molto altro da dire. Altrimenti, altra considerazione giusta è che si offrono degli alibi ai giocatori che già sono maestri nel cercarsi alibi anche laddove non ci sono. Antonello, quando hai qualcosa in contrario, io ti invito sempre, 800-24-0024, buona Pasqua anche a te e a tutti gli ascoltatori, ma per gli auguri ci sentiamo domani dalle 17 alle 18, dopo le partite. Franco, provincia di Latina, buongiorno. Eccomi qua, eccomi. Eccolo. Ci sei? Sì, che ci sono, sono qui. Dove allora, che vada? Complimenti per la trasmissione. Grazie. La prassi, no? No, quindi la prassi, sì. Volevo parlare di Inter Juventus. Sì. Io penso che l'Inter abbia un grandissimo giocatore che è Antonio Cassano. Non è molto pubblicizzato perché per via del carattere, ma lui è un giocatore non è, di pallone, non è pubblicizzato, non è, Cassano, Franco. Non è pubblicizzato Cassano. Sono 10 anni, no, 15 anni che lo pubblicizziamo. Non è nella sua grandezza. Ma per forza non l'abbiamo mai vista, Franco. La grandezza di Cassano vera non l'abbiamo mai vista, o no? Hai visto Inter Tottenham? Ma allora ci riduciamo a lì, no, mio. Io ho visto Inter Tottenham, ha giocato la migliore. Aspetta un attimo, poi ne parliamo. Anche io l'ho visto quando era la Roma, quando era Real, quando era al Bari che esplose, eccetera, eccetera. L'ho visto in Inter Tottenham, è stato il migliore in campo in una partita che non aveva un grandissimo senso, perché l'Inter partiva, era sotto un uragano di critiche, partiva nettamente sfavorita, un'impresa impossibile, e il simbolo di quella partita impossibile è stato proprio Antonio Cassano. Adesso vediamo se gioca ed è decisivo per altre 4-5 partite in quella maniera, e non stiamo chiedendo la luna. Ti posso dire quello che penso? Ma certo, siamo a posto. Allora, io credo che l'Inter vincerà con la Juventus con due gol di Antonio Cassano. Scrivo? Uno. Scrivo? Scrivilo, ti do anche ti do tutto quello che vuoi. Vuoi. Ci indovino spesso nel prossimo. No, vince, ma io 3-1, due gol li segnerà Cassano. Quanto vince l'Inter? 3-1. Vince 3-1 come all'andata. Allora io scrivo 3-1 come all'andata e doppietta di Cassano. Mi tengo il foglietto, Franco della provincia di Latina. Anche se giochiamo da 500 partite in 10. Chi è che manca? Zanetti è un giocatore che non meriterebbe di essere iscritto all'albo. Zanetti non merita di essere iscritto a quale albo? Io Zanetti lo iscriverei a qualunque albo, ma senti, ci sentiamo domani, dopo le partite siamo qui dalle 5 alle 6, quindi ti aspetto, io ho segnato il pronostico 3-1, due gol di Cassano e ho segnato anche tra parentesi Zanetti che non merita di essere iscritto all'albo. Bene, allora ci diamo appuntamento a domani. Perché a questo punto bisognerà andare a vedere le carte, caro Franco della provincia di Latina. Nerio, Firenze, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao. Siamo convocati, buongiorno. Sempre, 800-24, okay. 0024, okay. Siete convocati tutti, dimmi. Ecco, in relazione al discorso Totti e compagnia bella, io credo che sinceramente, anche se pur essendo non più giovane, ma avendo 38 anni, non ho visto il Rivera, però essendo molto appassionato, io credo che Rivera e Totti siano sicuramente abbastanza di gran lunga più avanti a tanti altri. Poi finisce inevitabilmente per parlare di numeri 10, forse non è un caso. No, poi c'è chi mi dice Maldini, Baresi, valgono tutte queste considerazioni, però voglio dire, tra i giocatori... A livello stilistico Rivera è ripetibile anche per Totti. a sì. livello, poi andiamo a vedere a livello realizzativo, però Totti, Totti potrebbe, potrebbe essere il giocatore che nella storia del calcio italiano ha segnato più gol pur non essendo una punta vera. È un giocatore, e questo secondo me è un aspetto che va sottolineato mille volte, è un giocatore che classe 1976 è ancora lì, decisivo in Serie A, e questo, questa longevità secondo me è un aspetto estremamente importante nella valutazione di un giocatore di qualunque sport, perché è un valore assoluto a mio parere. Nerio, ti ringrazio, adesso rispondo a qualche altro ascoltatore che vuol sentire invece parlare di altre cose come i Lakers, perché abbiamo un altro ospite puntuale, classico del venerdì. Prende il tiro da tre, lo mette! Colpo da giocatore di biliardo al tabellone, più due match, la partita si accende, la serie decolla, il palleggio per Michael Jordan, che ha spazio, tutti lo aspettano, può essere l'ultima azione della sua carriera NBA, Michael Jeffrey Jordan! Ed eccolo Flavio Tranquillo, ciao Flavio! Buondì! Buondì a lei! Allora, ovviamente si comincia dalla scimmia. Chi è la scimmia? La scimmia è quella che si è tolta a Miami dalla spalla. Sì. No? Se, non lo so, onestamente, cioè, mi verrebbe da dirti così da Chito che se doveva levarsi la scimmia avrebbe fatto meglio a fare come Denver, a 15, 16, 18, dare una bella rallentata e dire abbiamo visto che siamo buoni. Quando sei a 27 lo so, quel punto... però se a 27 la scimmia diventa un gorilla, Flavio. Io l'altra sera ti sentivo, citavi Jeff Van Gundy, dicevi che questo record, cioè non tu, dice Jeff Van Gundy che questo record è più importante della vittoria di un anello NBA. Io non, è un discorso da allenatori, io non sono d'accordo. Secondo me questo record rischiava di bruciare un sacco di energia a Miami. Sì, sì, questo, su questo sono convintissimo. Van Gundy secondo me intendeva importante nel senso che è più significativo, è più probante tecnicamente, perché per vincere un titolo devi vincere 16 partite di playoff con delle interruzioni, 33 di fila, sia pure di regular season, non sono più importanti nel senso che è un obiettivo più importante, è più importante come, più, come posso dire, prestigioso. Però è vero che gli avrebbe, anche queste altre 6-7 partite gli avrebbero... levato altre energie, su questo sono d'accordissimo. Sì, ma energie emotive, cioè perché sì, poi sì, alla fine prima che fisica. Ma sei lì alla vigilia di un playoff e hai comunque un record di questo tipo da difendere, cioè alla fine il bersaglio grosso è quello che comincia che si comincia a cercare tra un po', quindi secondo me loro si sono trovati un po' lì e non sono così convinto che siano dispiaciuti dal poter giocare leggeri le ultime partite della regular season. Ecco, tutto qui. In più magari aggiungo facendo qualche turno di riposo bravo, per i big three o big two. Esatto. Aggiungiamo anche questo. Senti, ovviamente un miliardo di ascoltatori mi invitano a parlare dei Lakers, che sono il tormentone dell'anno. Hanno perso a Milwaukee nella notte. Posso dire che se stanno fuori dai playoff sono estremamente sulla linea di confine, sono borderline, ottavi e davvero rischiano di star fuori. Lo possiamo chiamare il più grande fallimento della storia dell'NBA, dovesse così succedere? Beh, se non è il più grande in assoluto, è di certo nei top il più grande due bluff, o tre. Il più grande bluff, insomma. Cioè, capisci che l'unico motivo per cui forse si potrebbe usare un po' di cautela è che la serie di infortuni è stata un'aggiunta agli enormi problemi che hanno avuto. Questo, cioè, sicuro. Con tutto quello che è successo, senza i problemi di Nash, i problemi di Gasol e le prime 30 partite di Howard in cui era in campo, per dire ci sono, comunque adesso sarebbero ai playoff. Questo però non leva, questo non leva nulla al fallimento dell'idea, e a questo punto non è una, non è un'idea e basta, vuol dire che se tu metti quattro giocatori indipendentemente dalla loro possibilità di essere mescolati e dici tanto sono talmente forti che vinciamo, sbagli. Ecco, poi da sbagliare fino a non andare ai playoff, lì ci vogliono gli infortuni, ci vuole il reality show, ci vuole tutto quello che sta succedendo ai Lakers, che senz'altro recita un ruolo importante, però vincere non vinci. D'altronde, il 2004 erano sempre, c'erano sempre scritto Lakers, Come no. Poi magari vanno ai playoff e diventano quelli che tu non vorresti mai incontrare, perché possono asfaltare chiunque su qualunque campo, questo è evidente, però il fallimento, la linea di confine tra il fallimento totale e un playoff che sarebbe completamente impossibile da leggere per i Lakers è sottilissima. Molto sottile, però di certo la logica e la storia dicono che tu non inventi nei playoff una squadra. Puoi fare così e così e puoi fare bene, puoi fare benino e fare molto bene, ma non puoi fare orrendo e poi benissimo nei playoff. Poi magari succede anche questo nel reality, però tendo a dubitarne, soprattutto mi sento di poter dire che in questo momento ne dubitano fortissimamente loro. Sì, ne sono convinto. Flavio, grazie. Alla prossima. Ciao, grazie a Flavio Tranquillo. Adesso ci fermiamo per il traffico, poi abbiamo ancora qualche ascoltatore, anzi ne abbiamo un sacco, ma non riusciamo ad evadere tutte le pratiche. 800 24 00 24. Tengo molto a farvi ascoltare le dichiarazioni di conferenza stampa di oggi, cosa che succederà appunto dopo il traffico, e poi abbiamo un altro ospite per una doverosa celebrazione, questo negli ultimi minuti del programma. Dopo. Sì, buongiorno signor Gente, complimenti per la trasmissione. Devo confessare che parlare dopo The Voice Flavio Tranquillo un po' emoziona, però proviamo a farlo comunque. Tutti convocati. Dal direttore. Direttore a chi? Fatti bravi. Andrea da Firenze, 800 24 00 24, numero verde per rispondere alla convocazione. Andrea. Ciao, buongiorno. Ciao. Tutto complimenti per la trasmissione. Grazie. Ascoltami, per quanto riguarda il dibattito relativo a meglio Dotti o meglio Baggio, sì, due mostri sacri del calcio italiano, e su questo non c'è niente da sì. dire. Siamo alle Dotti masturbazioni mentali, tieni conto. Assolutamente. Dotti sicuramente mezzi fisici superiori, però Baggio nelle squadre che ha giocato, con i campioni che è stato vicino, con un mondiale nonostante tutto perso nel 94, però Baggio secondo me è veramente inarrivabile. Forse Rivera. No, Rivera sì. Rivera sì. Bravo, forse Rivera. Rivera Totti, sì, però allora Baggio ha avuto all'inizio della carriera un infortunio che per i tempi era terminale. Ha avuto la garra per riprendersi, per fare poi la carriera che ha fatto con un ginocchio che non aveva dentro più nulla. È stato un giocatore mostruoso, meraviglioso, che tutti abbiamo adorato, me compreso, perché è così. Che volete che vi dica? Io se devo scegliere tra i due, cosa che non avrei nessuna voglia di fare, perché io comunque adoro i giocatori che divertono, che mi divertono, e Baggio l'ha fatto per molti anni e non lo dimentico, Totti lo sta facendo ancora adesso, ebbene se io devo dare questo voto inutile lo do a Francesco Totti, ma poi è solo una mia opinione personale che ha diritto di cittadinanza esattamente come le vostre. Eccole le voci del prepartita: Conte, Stramaccioni, Mazzarri che piange e Sannino che vuole uscire dalla miniera. Nel calcio siamo dei professionisti, quindi mai dire mai in tutte le situazioni, anche perché ribadisco un concetto che deve essere chiaro. Io sono tifoso della Juve, sono allenatore della Juve, ma dovessi allenare il Milan e l'Inter, diventerei il primo tifoso del Milan, diventerei il primo tifoso dell'Inter, della Roma, della Lazio. Qualcuno ci gioca su questo per sminuire un po', magari per cercare di attaccarmi, o magari anche cercare di, tra virgolette, farmi odiare ancora di più dagli avversari. È ovvio che lui è professionista da molto più tempo di me, quindi probabilmente sa meglio di me come vanno le dinamiche in questo mondo. Adesso a me, onestamente, anche se ovviamente è un grandissimo club, risulta difficile immaginarmi sulla panchina della Juventus, ma anche per una questione di della mia giovane carriera. Sono, come penso tutti gli allenatori, un po' contrariato perché non posso allenare la squadra. Quando momento in cui avevamo ripreso a camminare bene, sono partiti tutti, non ne sto vedendo arrivare alla spicciolata, mi sono segnati che un bollettino di guerra, uno arriva il mercoledì, uno giovedì, uno oggi devo ancora vedere Armero, Zuniga, Cavani, la sapete la storia, Campagnaro mi è tornato infortunato, De Santis infortunato, Berami è acciaccato, vediamo di recuperarlo. Cioè, questa è la situazione, che devo dire. Tutti cercavano l'oro per conto loro. Alla fine che è successo? Tutti hanno scavato per i fatti loro. A un certo punto è caduto tutto. Stiamo aspettando che ci vengano a salvare. E se noi con la Roma vinciamo, forse i soccorsi riescono per un altro buco e possiamo dividerci e respirare ancora meglio. Ma se con la Roma non si vince, quel buco li si ottura ed è finito. Questo il prepartita di oggi, domani fuori secondi e si gioca una giornata importante, come vi ho detto. Io è una settimana che tento di celebrare un grande successo dello sport italiano che arriva dal volley e che è arrivato in un giorno molto particolare, che è stato ricordato sul campo da Gianluca Papi in una data molto particolare. Quale trionfo questo? Successo internazionale in Challenge Cup per la Copra Piacenza nel giorno in cui si ricordava Vigor Bovolenta. Io nella casualità, nello sport credo poco, nelle stelle molto. Lino Volpe, presidente onorario della Copra. Buon pomeriggio, presidente. Buongiorno a lei, grazie della chiamata. No, grazie a lei, mi aiuti a celebrare questa vittoria. Che cos'è per voi arrivata così in quel giorno? Allora, intanto la vittoria per noi è molto importante in quanto come sponsor, io sono presidente di Oro Italia e come sponsor, dato che il nostro gruppo è presente in tutto il mondo, in particolare in molti paesi europei, quindi un trofeo europeo si sposa perfettamente con il messaggio mediatico che volevamo dare e che abbiamo ottenuto. Per quanto riguarda Bovolenta, devo dire una cosa, senza come dire, troppe sciocche ipocrisie. Sì. Io non l'ho conosciuto perché ha giocato a Piacenza molti anni fa, ma mi ha straordinariamente colpito, l'affetto che questo ragazzo ha generato in questa città e devo dire, ho l'impressione che, non dico solo il volley, ma il volley in particolare, sa celebrare persone che sono passate, adesso al di là di questa brutta cosa che è successa, insomma, di questa morte prematura drammatica in campo, sì, assolutamente drammatica, però devo dire che anche quando partecipo a qualche cena con vecchi giocatori c'è un affetto verso chi ha giocato che è particolare, quindi è una cosa che mi colpisce. Lei presidente non l'ha conosciuto, era un grande ragazzo, era uno sportivo vero e quindi a me sorprende, parlo tutti molto bene. Sorprende pochino il fatto che venga ricordato in ogni situazione possibile. Senta, ma invece adesso che succede? Ieri playoff, Trento conduce 2-0 con Vivo Valencia, quindi 2-0 di Cuneo su Modena, siamo sull'1-1 tra Latina e Macerata e Piacenza e voi che siete sul 2-0 con Perugia. Adesso? Sì. Adesso noi speriamo e contiamo ovviamente di portare di vincere a casa lo scudetto? I passaggi. No. me lo dica. Pronunci, allora, faccia come Mazzarri. Dica quella parola. Quella parola fatidica. Allora, diciamo che faremo di tutto per vincere lo scudetto. Ecco, mettiamola così abbiamo fatto un compromesso. No, io credo che arrivare nelle prime quattro, anche qui fuori di retorica, arrivare nelle prime quattro sia francamente l'obiettivo minimo che ci eravamo dati. Sì. E penso che insomma dovremmo arrivarci. È ovvio che quando arrivi in semifinale poi dipende da tanti, tanti, tanti piccoli fattori e abbiamo una squadra o due che sono Trento e Macerata particolarmente attrezzate sia per qualità tecniche che anche per abitudine alle grandi competizioni. Sì. Però noi non ci tiriamo indietro e non abbiamo dei fringuelli, quindi insomma ce la giocheremo fino alla fine. Senta, io devo chiudere la trasmissione tra esattamente un minuto. Sì. Il futuro di Piacenza è salvo? Perché in autunno girava voce che ci fossero dei problemi. Ci sarà ancora Piacenza l'anno prossimo senza nessun se, forse o ma? Allora, le dico subito, la risposta è sì. Sì. Perché io come Dior, come presidente, continuerò nella mia sponsorizzazione, non c'è un se o un ma, diciamo che per fare grandi cose occorrono grandi risorse e la solitudine è una cattiva consigliera. Credo di aver risposto in modo assolutamente chiaro. E con tempi radiofonici perfetti. Grazie Presidente. Un abbraccio carissimo, arrivederci. Grazie Lino Volpe, Presidente onorario di Piacenza che ha vinto la Challenge Cup. Ciao a tutti, Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Ci sentiamo domani e vi aspetto tutti dalle 17 alle 18 per commentare la giornata che vivremo dalle 15 ovviamente. Ciao. Io zappavo la terra.